1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci alle 7:20 ormai, tra qualche secondo siamo pronti alla lettura dei giornali nello spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Siete pronti anche voi lì in regia, Peter Bescapè? Vai! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 4 aprile la maggior parte dei titoli dedicati all'attentato di San Pietroburgo, ma non solo. L'apertura del Sole 24 Ore, per esempio, sulle banche italiane. Salvataggio più vicino per le banche venete. Questo è il titolo di prima pagina. Veneto Banca perde 1,5 miliardi per maxi rettifiche. Ma poi, appunto, San Pietroburgo. Terrore in Russia, strage nel metrò. È l'apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, bomba islamista contro Putin, sangue a San Pietroburgo. Per la stampa, incubo jihad a San Pietroburgo, il giorno attacco a Putin. Il manifesto con una delle foto più drammatiche, con i corpi a terra poco dopo l'attentato, il titolo è L'ultimo metro. Terrore nella metro, sfida a Putin, è il titolo del Messaggero. Avvenire mette due guerre, la guerra riaccesa in Russia, ma anche la guerra rimossa in Congo, dove si parla di massacri e rastrellamenti. Poi la notizia della legittima difesa dopo la vicenda di Budrio, Libero, voglia di sparare. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre Libero di uccidere il killer di Budrio è l'apertura del Giornale. La Verità apre invece su Il governo crea la tassa sulle tasse. Quest'anno dovremo pagare 3,6 miliardi di euro in più a CAF e commercialisti che compilano le dichiarazioni. Allora, vediamo però cosa è successo a San Pietroburgo, almeno dalla cronaca dei giornali, da quello che si può sapere fino a questo momento. Il terrorismo torna in Russia. È il titolo del Sole 24 Ore, vabbè, si parla di 11 morti, purtroppo i morti sono 14, almeno ci sono anche diversi feriti. Antonella Scott racconta di questa morte nel metrò con immagini terribili di corpi riversi davanti alle porte sventrate di un treno che rimandano ad altri due attentati avvenuti nella metropolitana di Mosca il 29 marzo del 2010. Ieri i terroristi sono tornati nel cuore dello Stato russo, stavolta a San Pietroburgo. A pochissime ore dall'attentato, dalle telecamere di sorveglianza installate nella metro era già uscita l'immagine di un presunto terrorista, uno dei due ricercati dalla polizia, responsabile della morte di queste persone uccise ieri nell'esplosione di un ordigno artigianale nel vagone di un treno della linea blu tra le stazioni Sennaia e Technologicheski Institute. È nel cuore della città. Bilancio delle vittime che è destinato purtroppo a salire, come così è stato, e un secondo ricercato avrebbe collocato una seconda bomba nella stazione di Vastagna Ploshad. Ma in realtà questa, diciamo, è una prima versione. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato un kamikaze a colpire. Questo almeno si legge sul Corriere della Sera, pagina 2, la corrispondenza di Fabrizio Dragosei. Dopo aver puntato su un uomo con barba e zucchetto islamico ripreso dalle telecamere di sicurezza all'interno e all'esterno della metropolitana di San Pietroburgo, ora gli inquirenti invece sono convinti che l'autore dell'attentato sarebbe un giovane votato al suicidio. Secondo il portale di San Pietroburgo Fantank, sarebbe stato un 22enne Maxim Arishev, originario del Kazakistan, ad aver portato sul vagone della linea blu una bomba con 300 grammi di esplosivo, bulloni, chiodi e altri pezzi di ferro destinati a fare più vittime possibile. Indossava occhiali, una giacca marrone, cappello blu, zainetto quando è salito sul convoglio. Verso le 14:30, per fortuna non un'ora di punta, la bomba è scoppiata mentre il treno si trovava tra due stazioni. L'ordigno era abbastanza vicino a una delle porte che è stata divelta dall'onda d'urto. Pochi minuti dopo, un altro ordigno nascosto in un estintore veniva trovato in un'altra stazione, quella dove si scende anche per prendere il treno per Mosca. Vale a dire la stazione di Sennaia Ploshed. C'è da dire che ovviamente queste sono le prime ricostruzioni. Anna Zafesova sulla Stampa racconta, pagina 5, i ceceni, quegli eterni nemici che hanno reso Putin più forte. Beh, già ricorda la Zafesova nel settembre 99, quando Putin era neopremier, quasi sconosciuto, e rassicurò i russi promettendo di ammazzare i terroristi anche al cesso, frase testuale. Lì la sua popolarità schizzò in alto. 18 anni dopo Putin è ancora presidente, il terrorismo continua a colpire, anche se le stragi di centinaia di persone, come le bombe ai palazzi di Mosca nel 99 o le prese di ostaggi alla Dubrovka nel 2002, alla scuola di Beslan nel 2004, per fortuna non si sono più ripetute. Ma per i russi tutti questi massacri hanno un solo nome, i ceceni, i caucasici in generale, gli eterni nemici, i cattivi per eccellenza. E poi ovviamente c'è da dire che Putin in questo momento appoggia Assad in Siria in chiave anti-ISIS, e quindi una delle piste notevolmente seguite è quella di una ritorsione da parte dello Stato Islamico. Comunque il terrorismo che è tornato a colpire questa volta in Russia. Se veniamo alle questioni italiane, voglio subito metterla sulle tasse, signori, per farvi passare una bella giornata. No, in realtà sono i soliti rumors che ci sono in vista della manovra correttiva da 3,4 miliardi che il governo italiano deve approntare per dare retta alla variante dei conti chiesta da Bruxelles. Dove si metteranno queste tasse? Dove si recupereranno questi 3,4 miliardi? Allora, gli ultimi rumors, dopo aver detto che le accise sulla benzina saliranno. No, Renzi ha detto le accise sulla benzina non si devono toccare. Insomma, che si farà? Secondo il Messaggero, Andrea Bassi, a pagina 9, le accise sulla benzina effettivamente non verranno alzate verso l'alto, ma è tutto ovviamente da verificare poi, Le tasse invece saranno aumentate sul fronte del fumo e dei giochi, insomma i vizi, così tra virgolette, verso tasse più alte su giochi e sigarette. Riordino delle accise sul fumo con un nuovo prelievo sulle sigarette elettroniche, caro Lorenzo Nespoli, sempre le sigarette. Da quando sei passato alle sigarette elettroniche, signore, ti perseguitano con queste tasse. Si va verso un nuovo prelievo, ma sono tutte indiscrezioni, ricordiamolo, sulle sigarette elettroniche, aumento delle accise sul fumo e sui giochi, mentre invece la benzina dovrebbe essere a posto così. Staremo ovviamente a vedere. A proposito di tasse, sulle tasse locali invece si può capire chi ha ragione nel contenzioso tra comuni e governo, con i comuni, soprattutto quello di Torino che dice ci dovete 60 milioni voi da Roma per il ricalcolo sbagliato del passaggio da ICI, dall'ICI all'IMU alla TASI. Appendino dice, sindaco di Torino, ci dovete 60 milioni. L'altro ieri Maria Elena Boschi dice no, abbiamo fatto un patto con l'ANCI, associazione comuni, che sana tutto, non dobbiamo più nulla. Ieri Del Rio, ministro, ha sconfessato la Boschi, sottosegretario, questo almeno è il titolo della stampa, tasse locali, Del Rio sconfessa Boschi. Dopo l'alta del sottosegretario, il ministro invece apre all'Appendino e dice Torino ha diritto alle compensazioni. Palazzo Chigi, però, il governo frena, le rivendicazioni sono senza fondamento. Allora, qual è la versione del governo su queste tasse e rivendicazioni locali? Sì, no, bo, bi, bu, gurp, bal, ba, non si capisce bene, non si capisce bene. Ci sono versioni differenti sul fatto se i comuni debbano o no ricevere delle compensazioni. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata, lo sapete, l'articolo da mani sul volante se siete alla guida, se state facendo colazione appoggiate un attimo gli oggetti contundenti, che non vorrei mai che succedesse qualcosa con le vostre marmellate. Hashish a un alunno delle medie. E fin qui già, vabbè, fa arrabbiare, ma purtroppo sappiamo che è una delle questioni. Lo spacciatore è il bidello. E questa è la questione che è un po' più... Rimini lo racconta Il Giorno con Alessandra Nanni. Una volta i bidelli, tra l'altro qua a chiamarli bidelli adesso, com'è che si chiamano tutte le volte? Personale, collaboratore scolastico, no, c'è un altro termine, guarda, c'è ancora, l'hanno ancora più complicato, è assistente scolastico, no, i bidelli, non c'è niente di male chiamare spazzino, il bidello, da che mondo è mondo, il bidello. Vabbè, una volta i bidelli, scrive Alessandra Nanni sul Giorno, ti allungavano al massimo un panino sotto banco e ti salvavano la ricreazione. Adesso ti vendono una dose di hashish. È quello che ha fatto un campano di 23 anni, trapiantato a Rimini per lavorare in una scuola di media della provincia, arrestato dai carabinieri mentre passava il fumo a un ragazzino di soli 12 anni che frequenta l'istituto. In carcere è finito anche il fornitore riminese già conosciuto alle forze dell'ordine, che in casa aveva 700 grammi di droga. Questo dunque succede... Il blitz dei carabinieri sventa tutto, è stato subito licenziato il bidello, e lo spero davvero che non ci siano stavolta sindacati che vogliono difenderlo. Hashish a un alunno delle medie, lo spacciatore è lui, il bidello. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, dell'informazione, insomma. Va bene, ok, va bene. Dai, alle 7:35 minuti, ce la possiamo fare allora, signore, andiamo sulla politica. La politica ancora si interroga con Renzi, che ha vinto al 68% il primo turno delle primarie. C'è però un duello sui numeri, continuo. Io speravo che il primo giorno portasse consiglio, invece il secondo giorno ancora sempre più polemiche, interviste. Renzi che dice chi perde lo ammetta. Le polemiche sulle cifre sono robe da addetti ai lavori, quando si vince, chi perde ammette, così Renzi. Non è un successo per Matteo Renzi, dice in serata l'ex premier, ma un successo per la squadra. Vabbè, questa attenzione, è la nuova strategia di comunicazione renziana, passare dal PD del io al PD del noi. Questo è ribadito un po' su tutti i giornali. E quindi, insomma, dare riconoscimento alla squadra. I due sconfitti, almeno al primo turno, non ci stanno. Andrea Orlando, ministro della giustizia, viene intervistato da Tommaso Ciriaco su Repubblica e dice: deluso dal risultato? Assolutamente no, dipende da come si imposta una sfida. Noi siamo partiti all'ultimo, il 90% dell'apparato è schierato col segretario uscente, molti iscritti non hanno rinnovato la tessera. Ci sono persone che incontro e mi dicono: sono d'accordo con voi, ma non sono iscritto al PD. Sono le persone che però poi voteranno alle primarie il voto popolare. Matteo ci isola, il rischio di batoste, i delusi mi aiutino a fermarlo. Questo è il senso dell'intervista di Orlando. Sempre più duro invece, come è un po' nel suo stile, è Emiliano, l'altro sconfitto almeno al primo turno, è arrivato al 6% appena, ha superato, è vero, il 5%, ma dice Emiliano in un'intervista di Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, pagina 9, solo se prevalgo non ci saranno ulteriori scissioni. Non ho voluto incrudelirmi, ma negli ultimi giorni i signori delle tessere hanno spadroneggiato e questo mi fa orrore e distrugge il partito, così dice Emiliano. Non ci si può compiacere della partecipazione se consiste solo nel mandare a votare chi ha fatto le tessere all'ultimo minuto. E poi Emiliano lancia un ponte col 5 Stelle, altro che Bersani. Sentite qui Emiliano: i 5 Stelle siamo noi, l'80% di loro viene dal PD e dalla sinistra, dobbiamo riconoscerli come soggetto politico con piena dignità. Certo, preferirei vincere le elezioni, ma se si creassero le condizioni non ci sarebbe nulla che ostacoli una collaborazione di governo con il Movimento 5 Stelle, a patto che il PD abbia un progetto politico forte, altrimenti rischiamo di essere schiacciati. Dunque, Emiliano apre moltissimo alla collaborazione con il 5 Stelle al governo. Dicevo della nuova strategia di Renzi, emessa appunto dal deputato Michele Anzaldi, nuovo capo della comunicazione. Come racconta Amedeo La Mattina, pagina 11 della Stampa, la nuova strategia di Renzi sarà fuga dai faccia a faccia in TV, perché è talmente avanti rispetto ai competitor alla segreteria del partito, cioè Orlando ed Emiliano, che ha già rifiutato l'invito di Enrico Mentana, di Bruno Vespa, di Lucia Annunziata, del TG1 del direttore Mario Orfeo, per fare dei faccia a faccia con Emiliano e Orlando. E infatti Emiliano dice: fugge, ha paura, scappa. È un grande classico, quello che si sente nettamente in vantaggio non deve rischiare nulla, no? E il portavoce Anzaldi infatti dice: in questa fase Matteo meno appare e meglio è. E poi c'è ancora l'idea del passare alla strategia del noi. Questo lo ribadisce invece nel retroscena politico a pagina 7 di Repubblica Matteo Richetti, che ai compagni di partito spiega lo schema. Lo slogan dall'io al noi deve diventare chiaro plasticamente. E sarà un Renzi che farà uscite pubbliche, ma niente teatri o circoli, ma solo realtà associative, sociali, lavorative, meno faccia a faccia, meno interviste ovunque, ma l'idea di un messaggio al giorno. Signori, sono le strategie politiche di comunicazione. Dall'altra parte, il Movimento 5 Stelle c'è su Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, il decalogo di Grillo sul tema energia. Ieri è stata fatta una conferenza stampa alla Camera e sull'energia ci sono alcuni elementi interessanti di discussione. Per esempio, Beppe Grillo vuole mettere uno stop al fossile, alle energie dal fossile, no? E ha usato anche questa metafora. Avete un lavoro difficilissimo voi del 5 Stelle, fare capire a dei fossili che il fossile è finito. Il capo del movimento politico interviene per presentare la prima parte del programma che i 5 Stelle porteranno alle elezioni. Sono punti dedicati, perché sono i punti dedicati all'energia, e sono stati prima spiegati e poi votati in rete. Ha spiegato il neo capogruppo alla Camera Fico: si aprono le porte del futuro, con questo piano entro il 2050 ci liberiamo dalle fonti fossili ed entriamo in un regime di energia al 100% rinnovabili. In particolare, questa cosa mi ha un po' colpito, io che metterei tranquillamente una centrale sotto casa nucleare, visto che ti dicono mettila sotto casa tua, sì io la metterei sotto casa mia, però è chiaro che ci sono intorno magari tante persone che non la vorrebbero. Invece il Movimento 5 Stelle prevede di, ovviamente il nucleare in Italia non c'è, ma non solo, entro una legislatura fermare l'importazione di energia nucleare dall'estero e andare verso una strategia di totale 100% rinnovabili, fotovoltaico, eolico. Si chiede insomma di spostare gli incentivi dalle energie fossili alle rinnovabili. In realtà l'Italia spende già moltissimo per le rinnovabili, fa sapere Repubblica, 200 miliardi nei prossimi 20 anni, ma comunque insomma è interessante il nuovo piano energetico, come hanno definito la nuova TAP, no? La pipeline transatlantica, un attacco al nostro territorio. Ma va bene, dai. Allora, intanto voglio salutare Mauro Meazza. Devo dire, una giornata un po' difficile, ricordate sempre, meno male che c'è l'Inter, e questo può rallegrare le giornate anche le più cupe, le più dure. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Ma io volevo collegarmi, invece di parlare di queste vicende così, diciamo, minimali, sì, volevo proprio collegarmi a queste vicende di energia. No, però aspetta, energia, prima c'è una comunicazione importante da fare. I Chapter 11 con Mauro Meazza in prima persona a cantare, ma non solo, ovviamente lui, suoneranno, adesso correggimi se sbaglio, a Milano. È vero. Sabato questo, non posso negarlo. Al Teatro Silvestrianum, sì. A che ora però? Perché insomma... alle 9 di sera. Alle 9 della sera, alle 9 della sera, sabato sera dopo l'aperitivo, eccetera. Al Teatro Silvestrianum, Chapter 11, come sempre per beneficenza. Come sempre. Come sempre per beneficenza. Andate a vederli. Ecco, questo è... Bene, ti ringrazio molto e vorrei tornare sul fotovoltaico però. Ossia, posso tornare sul fotovoltaico? Sì, certo, adesso certo. Non è che Peter c'ha qualche registrazione, qualche audio della partita di ieri? No, non vogliamo infierire. Ah, va bene, vi ringrazio molto, non vi lasciamo soli fuori dall'Europa comunque, come vedi. Allora, no, fotovoltaico perché se tu leggi religiosamente norme e tributi, caro Alessandro, come sempre devi fare, scoprirai che in forza di un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate l'impianto fotovoltaico diventa bene immobile, quindi può accedere all'ammortamento maggiorato. Significa c'è lo sconto fiscale, insomma uno sconto fiscale più alto di quello che si pensava prima, ma su norme e tributi naturalmente si trova tutta la descrizione puntuale. Poi già hai evocato le accise sui tabacchi, sì. Sappi che di questa manovra, noi diciamo è la manovrina, così se ne parla sui giornali, 3,4 miliardi, una manovrina, come i tuoi due urini c'è la manovrina. E poi ti voglio dire, riparte, forse questa volta arriva, il disegno di legge sulla concorrenza. Non so se hai contato le settimane, sono più o meno 2 anni che questo disegno di legge gira e quindi insomma almeno un centinaio di settimane via le abbiamo fatte, vediamo se questa è la settimana, dillo tu perché io sono sempre un po' in imbarazzo. Decisiva. Decisiva. Ovvio. O poi si lavora anche al DEF, documento della mia finanza, lì si pensa di introdurre, di evocare, di anticipare alcune detrazioni per il secondo lavoro. Se in famiglia lavorano in due, il secondo lavoro potrebbe avere gli sconti fiscali più alti. Ma molto altro c'è da dire, ricordati che già ti ho detto che aprile è il mese più crudele. Sì. È crudele anche perché da aprile la BCE ha ridotto il suo quantitative easing, insomma l'immissione di liquidità è scesa da 80-60 miliardi. Leggi il dettaglio sulle pagine di Finanza e Mercati, come sempre tu le approccerai. Avidamente. Bravissimo, oggi sei molto preparato e anche reattivo, me ne compiaccio. È un po' come la Sampdoria, in cauda venenum. Allora, in cauda invece io in cauda condominium perché oggi è martedì, sì. E allora c'è la pagina di condominio, il servizio principale di oggi è dedicato alla manutenzione di ascensori, attenzione, quelli ante 1999 vanno revisionati, leggete i particolari sulla pagina di condominio, ma poi ti voglio dire, la Cassazione l'ha detto chiaramente, la puzza di fritto del vicino è reato di molestia olfattiva. Il cavolfiore? Non si è espressa da quello che ho potuto leggere dalla sentenza prelevabile per gli abbonati all'edizione digitale direttamente con il nostro link. Tu non sai che danno, che bomba atomica hai buttato in questo momento. Io mi rendo conto che effettivamente la puzza di fritto che può configurare il reato del 674 del codice penale, ecco, questo elemento può essere un elemento di grande disturbo in tutti i condomini. Comunque, sì. Leggi la pagina di condominio sul Sole 24 Ore di oggi, troverai appunto la puzza di fritto. E su questo, caro Alessandro, traffico! Ma chi se ne frega? L'urlo di guerra prima di entrare a scuola. Ma queste sono le cose che più mi fanno piacere. So che tanti bambini, tanti ragazzini, ora a studiare! Seguono con... No, sono molto poco severo. Io seguono con passione, attendono la carta costa alla fine della rassegna stampa. Ci arriviamo tra pochissimo. Intanto, visto che si parlava di lavoro, c'è questa inchiesta, questa notizia di Paolo Berizzi su Repubblica che davvero mi ha colpito. Ma davvero si può arrivare a questo in Italia? Sì. Contratto truffa nell'Oltrepò per 70 lavoratori italiani pagati in moneta rumena. In Italia, Succede a Stradella, in provincia di Pavia. Tra il poco e niente, meglio niente. D'accordo, accetti, ma il niente è una truffa. Lavoro italiano, stipendio rumeno, come il contratto, pagato in leu, cioè la moneta rumena, che equivale a 0,21 euro. tradotto, lavori un mese per poco più di 300 euro, 1400 leu e zero contributi. La beffa nella beffa è che sei un lavoratore italiano che per avere un impiego è costretto a firmare un contratto rumeno. È successo a 70 dipendenti della Ceva Logistics Italia, stabilimento a Stradella, oltre Po Pavese, quasi tutti originari abitanti della zona, età tra i 20 e i 45. E stesso destino professionale, la condizione per ottenere un posto era una firma su un contratto proposto da Byway JPB Consulting SRL. Che cos'è? Un'agenzia interinale con sede a Bucarest, alla quale si era rivolta un'altra agenzia di Lodi, alla quale aveva a sua volta fatto ricorso un consorzio di cooperative, serbatoio di manodopera appaltato dalla Ceva, e l'accordo rumeno, scritto in un italiano zoppicante, prevedeva che 70 assunti ricevessero uno stipendio misto nella valuta, una parte fissa pagata in leu e una piccola parte in euro. Ma siamo a questo? Per carità, è una piccola storia, nel senso che numericamente riguarda 70 lavoratori, ma davvero incredibile. Questa invece è una storia di cronaca che rimane ben presente sui giornali, la vicenda di Budrio, l'uccisione in rapina di un barista, Davide Fabbri, 52enne. Il sospettato numero uno è Igor Vaklavich, ex militare russo, così almeno lui si professa, lo fa perché è una persona ben nota. Arrestato varie volte, diversi anni di carcere, poi è stato rilasciato ed è considerato un rapinatore che, come dire, è anche molto violento nei modi, irreperibile secondo gli inquirenti italiani, secondo le forze dell'ordine, perché c'è un'ordinanza di custodia cautelare che dice che dovrebbe essere in carcere per svariate rapine, una più violenta dell'altra, ma evidentemente è libero ed è scappato. Ricercato per altri colpi, si pensa a lui e tutti i giornali raccontano del suo profilo secondo gli inquirenti. Al di là della cronaca uguale, vi sottolineo Fabio Tonacci, pagina 15, il tema della giustizia mancata, un arrestato per rapina su due fuori dalla cella dopo un anno. Manca la certezza della pena e lo si dice migliaia di volte. Fabio Tonacci racconta la storia simbolo di due rapinatori, Alessia e Christian. Il 13 settembre drogano Valentino, gli rubano portafogli e bancomat mandandolo all'ospedale. La polizia li prende, grazie alle telecamere. Christian confessa subito, quindi i due patteggiano. Risultato? Non fanno un giorno di carcere. Questa storia, piccola ma simbolica, arriva da Pescara, traduce infatti il sentimento sempre più diffuso di una parte dell'opinione pubblica che ritiene che in Italia non vi sia certezza della pena, che ladri e rapinatori cioè non vengano perseguiti come si dovrebbe o evitino quasi sempre di pagare per i loro crimini. Ancora due giorni fa il sindaco di Budrio, Giulio Perini, ha rilanciato il tema dicendo: l'unica giustizia è quella della legge, occorre la certezza della pena. Certo, si dice sempre, ma questo è il dato di fatto, lo faccio vedere anche sulla mia pagina Facebook. Vieni qua Lorenzo Nespoli a riprendere. Un arrestato per rapina su due fuori dalla cella dopo un anno. Questo su Repubblica, giornale non certo passibile di accuse di essere, come dire, un giornale di destra. Ecco. Ma cari bambini, care bambine, cari tutti, è arrivato il momento della carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Questo è un articolo che devo far leggere assolutamente alla mia gattina Zen. È l'articolo di mezza pagina del Corriere della Sera di Paola D'Amico. Zen, buone notizie. Cara Zen, buone notizie. Lei mi fa sempre miau, che vuol dire sempre: ma dammi i crocchini, non rompere queste notizie. Miau. Il miglior amico dell'uomo è il gatto. Mezza pagina sul Corriere, con uno studio che smentisce lo stereotipo del felino come animale femminile. Il miglior amico dell'uomo è il gatto. Ma chi se ne frega!